Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto 87 oggetti, ho tirato su più di 4.000 euro e ho realizzato un desiderio. Manca un mese e mezzo alla fine e ho ancora un sacco di roba da vendere, quindi olè, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta, oggi vendo un corso di francese. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 19 maggio, c'è una bella giornata qui a Milano, sono le 16.08, ma soprattutto manca un mese a sabato 19, essendo il 19, a sabato 19 giugno 2010. Perché manca un mese a sabato 19 giugno 2010? Visto che siamo stati al Salone del Libro, c'è stato un sacco di gente, ci siamo divertiti, abbiamo deciso di replicare, quindi tutta la redazione di Vendo Tutto, dopo il Salone del Libro, farà la seconda uscita ufficiale, direi, del programma il 18 e il 19 giugno a Riva del Garda. Cosa succede a Riva del Garda? A Riva del Garda da qualche anno c'è un festival che potremmo chiamarlo il festival della radio, che si chiama Radio Incontri. Radio 24 è stata ufficialmente invitata e credo che oltre a noi ci sarà anche Gianluca Nicoletti, credo, però non andiamo, che magari non è vero, poi Nicoletti cambia idea, sai com'è, non ci va. Noi invece ci saremo di sicuro e saremo quindi venerdì 18 maggio alle 16 in diretta dalla piazza centrale di Riva del Garda, tempo permettendo, ma soprattutto sabato sera la direzione del festival di Radio Incontri ci ha chiesto di fare una serata, di fare qualcosa che raccontasse un pochettino del programma e raccontasse un pochettino anche degli ascoltatori, e quindi ci siamo inventati questa serata. La serata si chiama Vendo Anch'io. Abbiamo bisogno di voi, però abbiamo bisogno dell'aiuto degli ascoltatori. In che modo? Molto semplicemente, tanto avete un mese per pensarci, eh? Oggi è il 19 di maggio e tutto accade il 19 di giugno, segnatevi già questo weekend, il weekend del 18 e 19 di giugno a Riva del Garda, in provincia di Trento, mi pare, giusto? Siamo a Riva del Garda, provincia di Trento. Visto che molti di voi mi scrivono che hanno voglia, che invidiano questa cosa di liberarsi delle cose, di vendere, di liberarsi di un peso, di cambiare vita e di realizzare un desiderio, voi mi avete già mandate diverse liste dei vostri desideri, la redazione, cioè Tiziano Bonini, Laura Faggin e Matteo Caccia insieme, hanno deciso per una volta di dare questa possibilità anche a voi. Dovete fare una cosa molto semplice. Dovete mandare, per partecipare al concorso Vendo Anch'io, dovete mandare tre cose. Allora, scrivete un allora, prendete carta e penna, perché questa non è una roba da poco, eh? E soprattutto concentratevi un secondo. Voi, se avete voglia di partecipare, scrivete un racconto di una pagina, mi raccomando, non più di una pagina, riguardo a un oggetto particolare, un oggetto che voi avete da un sacco di tempo, un oggetto che vi rappresenta o magari vi rappresenta troppo, qualcosa di cui volete liberarvi perché è diventato talmente simbolico che è un peso per voi, oppure perché è diventato talmente simbolico che non avete più bisogno di lui. Quindi un racconto di una pagina, di un oggetto di cui vi volete liberare. Poi mandate un desiderio che volete realizzare, un desiderio molto concreto, o anche no, però un unico desiderio. Se volete capire che tipo di desiderio, andate a vedervi la lista dei miei, ma immagino che voi ne abbiate dei desideri in testa, giusto? Una cosa che voi volete realizzare da tempo ma non avete ancora realizzato. E in ultimo una breve biografia, una roba di 10 righe al massimo, in cui mi dite chi siete, cosa fate, dove venite. Un fiorino, l'ho detto, ok, una breve biografia. Pigliate tutto, lo mettete insieme in un'unica email e la mandate a vendotutto@radio24.it, ok? Vi ripeto di cosa abbiamo bisogno: un racconto di una pagina, di un oggetto a cui tenete particolarmente e di cui volete liberarvi, un desiderio che volete fare da un po' di tempo e non avete ancora fatto, e una vostra breve biografia. Che cosa accade tutto ciò? Accade che da qui al 19 di giugno del 2010, cioè giorno in cui noi saremo a Riva del Garda, la redazione di Vendo Tutto leggerà questi racconti. Ne selezionerà 5. Ok? 5 che sono quindi i finalisti di questo concorso. I 5 finalisti verranno a Riva del Garda nella serata di sabato 19 giugno insieme all'oggetto che è il protagonista di questo racconto. Durante questa serata io leggerò i 5 racconti, chiaramente presenteremo i 5 finalisti, chi sono, perché, da dove vengono, eccetera, eccetera, eccetera, e verrà fatta un'asta di questi 5 oggetti. Mi seguite? I soldi che verranno guadagnati da questa asta dei 5 oggetti verranno regalati al vincitore del concorso, che sarà chiaramente tra questi 5 finalisti, scelto da una giuria lì presente specializzata per realizzare il suo desiderio. Ok? È esattamente quello che sto facendo io da gennaio. Volete realizzare una cosa, volete liberarvi di un oggetto, raccontate la storia, ce la mandate, i 5 finalisti vengono a Riva del Garda, da lì il vincitore si piglia i soldi e realizza il desiderio. Voilà, vendo anch'io, si chiama il concorso, chiaramente mettiamo tutto sul sito radio24.it e su Facebook Matteo Caccia vendo tutto. Voi intanto cominciate a segnarvi queste date, 18 e 19 giugno, Riva del Garda, vendo anch'io un racconto di una pagina di un vostro oggetto. Questo è quanto, se volete altre informazioni ve le ricordo, vendo tutto @radio24.it e a breve, appena finito il programma, mettiamo anche il regolamento del concorso bello preciso su Matteo Caccia vendo tutto di Facebook. Eccoci qua, 80024 0024, perché non solo di concorsi ha fatto questo programma, ma anche di storie. In particolar modo oggi è la storia di un corso di francese. Allora, corso di francese, come accade? Come accade secondo voi? Perché la gente si sposta al giorno d'oggi, no? Alla fine sempre poi si è spostata per due motivi: per lavoro e per amore. Io qualche anno fa mi ero innamorato di una francese, mi ero comprato questo corso di francese cercando di impararlo e non ce l'ha fatta. Però oggi vorrei sentire questi, vorrei sentire solo persone che si sono trasferite dall'Italia o all'interno dell'Italia, 80024 0024, e che lo hanno fatto per amore. Quindi gente che, beh, mi piacerebbe moltissimo sentire degli stranieri che hanno dovuto proprio fare fatica per imparare l'italiano, ma sono venuti qui apposta perché erano innamorati di qualcuno. Ma anche italiani che sono stati all'estero e che siano tornati, che avevano voglia di andarci semplicemente perché erano innamorati di una persona e hanno fatto fatica, hanno dovuto imparare quella lingua, perché alla fine non è vero che quello dell'amore è un linguaggio universale. Non è vero, se non ci si capisce è veramente un casino. 80024 0024, quindi solo persone che sono trasferite per amore dall'Italia e all'interno dell'Italia, oppure 349-238-6666. La mia storia è pronta, il corso di francese è sul sito per sentirla, eccola qui. Il corso di francese. Corso di lingua francese metodo Assimil. Metodo di apprendimento ad assimilazione intuitiva sviluppato in due fasi: la fase passiva di assorbimento, la fase attiva di messa in pratica. Livello principianti e intermedi. Il cofanetto contiene un libro di 560 pagine e 113 lezioni, 4 CD audio per un totale di 3 ore e 10 minuti. Perfetto per chi vuole imparare il francese o fare finta di studiarlo. Valore commerciale 78 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 80024 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Oggi non vanno più di moda, però fino a qualche anno fa erano in vendita dei corsi di lingua che ti permettevano risultati miracolosi vantando metodologie avveniristiche, tipo le cassette da ascoltare per poi ripetere. Era il periodo in cui sui giornalini per ragazzi si vendevano strumenti per guardare le donne nude attraverso le pareti. Ecco, in quel clima lì c'era qualcuno che credeva di potersi mettere le cuffie di notte, accendere play e la mattina poter parlare spagnolo. Un po' come mettere il libro sotto il cuscino e svegliarsi dottore. Un prodotto si chiama Assimil, d'altra parte, qualcosa vorrà dire, no? Ecco, quando ho comprato questo corso per imparare il francese non ero ancora consapevole. Ora però lo posso dire. Io sono uno di quelli che fanno sempre gli stessi errori. Si chiama coazione a ripetere. Lo so che sto per fare una stupidaggine, ma non posso fare a meno di farla. Cioè, è proprio che non ci riesco. Sì, è più forte di me. Per fortuna non succedono mai cose tragiche, però ad esempio di corsi di lingua ne avrò comprati almeno 5. Scarpe sbagliate ne avrò prese 20. Con i miei buoni propositi ci si può lastricare la via Emilia. Lo so che non sono l'unico ad avere questo problema, ma non è che mi fa stare meglio. Mi sembra sempre di essere solo io il deficiente che non impara dai propri errori. Insomma, mi ricordo bene anche i programmi sull'intelligenza degli animali, e anche le scimmie sono in grado di farlo, lo so. Cioè, qual è il famoso esperimento, quello sullo scimpanzé e la banana? Avete presente? Cioè, lo scimpanzé fa un sacco di tentativi sbagliati che non ripete finché alla fine fa la cosa giusta e si mangia la banana. Ecco, io la banana, se va bene, la raggiungo per caso, mica perché sono intelligente. Quando a 27 anni ho deciso di tornare a Parigi dopo la leggendaria esperienza fatta con l'Interrail per vedere se era ancora la città dove dovevo andare a vivere, ho pensato bene di imparare il francese. Il problema era che era la terza volta che ci provavo e dopo anni dovevo aver capito che non ero portato per i corsi fai da te e che a me ci vogliono proprio l'insegnante e i compiti a casa, se no mi addormento oppure guardo la TV e mangio pane e maionese. Dopo aver rifatto lo stesso errore, non imparo niente e vado lo stesso a Parigi per un mese. Un paradiso. E lì torno ad essere un po' il bohemien che sognavo 10 anni prima. Dalla mansardina in Rue vicino alla Sorbonne ai giardini di Luxembourg, mi sembra di poter regnare sul mondo. Comincio a smettere di stirare i vestiti, ricomincio a indossare occhiali da sole, a fumare sigari. E poi scrivo, ovviamente, sulla carta, no? Come facevano Sartre o Céline. Un bel quadernone che avevo comprato mentre cercavo un posto dove mangiare. Sì, perché è andata così, un giorno avevo fame. Ho visto un'insegna con scritto papeterie e mi sono detto, ci sarà del cibo lì, no? Papeterie. E invece no. Quella parola lì vuol dire cartoleria. Una volta entrato, per non fare la figura del buffone, ho comprato carta e penna, senza aprire bocca, ma indicando con il dito. E una volta uscito, mi sono seduto su una panchina e ho cominciato a scriverci sopra. Ovviamente, in italiano. Cosa mi aveva spinto a Parigi? Beh, chiaro, no? Un'altra delusione amorosa. Ormai è evidente. Gli uomini normali agiscono esclusivamente sotto l'impulso del dolore o della disperazione, questo ormai mi è chiaro. Ero appena stato lasciato dalla mia ex, quella del tempo, voglio dire, alla quale avevo promesso amore eterno, con la quale mi ero immaginato padre, poi nonno, insieme alla quale sapevo che avrei passato il resto della mia vita. Soffrivo, come tutti, moltissimo, però ero a Parigi ed ero da solo. E quindi, dopo aver sentito gli odori del quartiere latino, dopo aver sfiorato in metropolitana le donne francesi, avevo capito che c'era ancora vita in me, che il mondo poteva ancora darmi qualcosa. E quindi, con rinnovato ottimismo, camminavo per le strade, mettendo in pratica la teoria del flâneur. Non ero diretto in nessun luogo, perché la vita non deve essere sempre un insieme di atti razionali, lo diceva Baudelaire. La vita deve essere un'esperienza di continua apertura e scoperta, fatta di incontri e connessioni casuali. Insomma, avevo in mente queste boiate qua. Certo, a Parigi aveva un senso, a Romentino ne avrebbe avuto molto meno. E io ero a Parigi. Nulla mi spaventava. A parte che per l'ennesima volta non avevo imparato la lingua. Ci sono cose però in cui le parole non contano. Un po' come quando incontrai Dominique. Dominique è la donna che ti guarda negli occhi e sorride. Credo che chiunque abbia avuto almeno una Dominique nella sua vita. La mia la incrociai non lontano da casa, dalle parti di Saint-Germain-du-Pré, con un croissant in mano. Mi guardò e mi sorrise. Fu il più classico dei colpi di fulmine. Io producevo abbondanti ferormoni e lei molta copolina. Avevamo tutti e due la dopamina a 1000, per dirla in maniera poco romantica ma scientificamente perfetta. L'amore non è dover mai dire tra 2 giorni ho un treno che mi riporta a casa a 1000 chilometri da qui. Ma io lo dissi. E piangemmo insieme, piangemmo alle Tuileries, a Place Vendôme e alla Gare de Lyon. Le promisi che sarei tornato prestissimo ed ero così convinto che una volta a Milano mi comprai questo corso di francese. Libro e CD-ROM. Un investimento importante. Il mio ennesimo errore di valutazione. L'ennesimo tentativo sbagliato dal quale non imparare niente. Un corso per tornare a Parigi a fare il cameriere e vivere con Dominique, finché morte non ci separi. Fu nei giorni in cui ancora non riuscivo a pronunciare bene le vocali dei dittonghi che incontrai Giulia e non me ne staccai più. Questo corso non mi è servito molto e quindi, nonostante la papeterie, gli impressionisti francesi, io questo corso lo vendo. Il suo valore sul mercato è di 78 euro, la base d'asta 99 centesimi. Se avete amori stranieri e vi siete trasferiti, 80024 0024. Moi je joue. Je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait. Vous êtes mon jouet. présent. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui. Amori stranieri, stranieri qui avendo tutto. Mio fratello ha imparato il polacco per una tipa. Si è pure fatto un paio di volte un giro un giorno di pullman per andare da lei. Ciao Chico da Pisa. PS, ma la cesta? Chico, la cesta, se sei tu che l'hai comprata, parliamone, insomma, troviamo il modo per fartela avere. C'è qualcuno però che dalla Polonia, mi sembra di capire, invece è venuta in Italia ed è Kinga 800240024. Pronto? Pronto. Ciao Kinga, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Io bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, raccontami la tua storia. Tu hai 30 anni e vivi dove? Io vivo a Genova. Attualmente sono dentro la serra che raccolgo il basilico, Ma nel senso che tu hai una serra o di mestiere raccogli no, basilico? No, no, io sono un dipendente soltanto. Ah, ok. E sono venuta in Italia seguendo il mio fidanzato, diciamo. Sono venuta 6 anni fa. Ma lui è italiano, Kinga? No, no, lui è polacco. Ok, quindi però, comunque hai avuto i problemi di imparare la lingua. Ovviamente, però lavorando in serra avevo le mani occupate ma le orecchie no. Allora ho imparato italiano tramite la radio. Cioè tramite Radio 24? No, prima ti ascoltavo su un'altra radio. Ah, ok, ok. Non dire che ascolti Radio DJ perché altrimenti poi mi fanno storie. Diciamo che comunque... No, lo so. In un modo o nell'altro hai imparato... Quindi c'è chiaramente una grande responsabilità per tutte le boiate che dico tutti i giorni, però mi sembra che in realtà il risultato sia abbastanza buono, Kinga. Tu lo parli abbastanza bene l'italiano, anzi. Ma lo spero. Se... Infatti tramite la radio ho imparato Senti, abbastanza. Scusami, poi ti saluto. Raccogli basilico, nel senso che lavori per una serra e... sì, che... un'azienda agricola che produce basilico. E poi, ovviamente, pesto. Pesto. No, noi pesto non facciamo, ma... Però raccogliete basilico. Il basilico. Kinga, okay. Grazie mille e buona giornata. Ci sentiamo grazie presto. Grazie a te. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo da Ivan. Pronto, Ivan? Ciao, Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu stai bene? Io sto benone. Senti, raccontami la tua storia che purtroppo, come al solito, il tempo è strettissimo. Molto, molto breve. La mia storia inizia circa 4 anni fa con mia moglie, una perfetta sconosciuta ai tempi, che penso bene di scrivermi una mail su MySpace. Ma perché, scusami, ti ha scritto una mail? Perché apparentemente le sono piaciuto vedendo la mia foto. Ah, ok, bambino, ok. Okay. Senza un apparente motivo. Da lì abbiamo iniziato a chiacchierare. Uh-huh. Dopo circa un anno ha pensato bene di venire in Italia. Sì. Ci è poi tornata per rimanerci circa 2 anni. Siamo tornati negli Stati Uniti dopo questi 2 anni, ci siamo sposati. Io sono rientrato in Italia in attesa dei documenti e sto aspettando di trasferirmi a Washington. Tu stai per trasferirti là? Sì, spero di farlo presto. E parlate inglese tra di voi? Parliamo inglese, sì, perché per fortuna, almeno per quello, non è stato un grande problema, perché io in passato ho studiato per un certo periodo negli Stati Uniti, quindi io parlo l'inglese, parli è bene. Stato un problema poi per lei parlare l'italiano. Ivan, scusami, poi ti saluto. Che cosa fai? Che lavoro fai o farai là? Io faccio barista e quasi sommelier, quindi... Quindi farai quello? È quello che farò negli Stati Uniti. E si trova abbastanza facilmente? Spero di sì. Ciao Ivan, grazie mille, buona ciao. Giornata. Ciao. Niente, non abbiamo più tempo di prendere anche Gianluca da Firenze, ma lo prendiamo la prossima volta, magari domani, così. Invece, se voi avete voglia di partecipare al concorso Vendo Anch'io, andate sul sito radio24.it, non c'è ancora, ma trovate su tutto. Vabbè, ragazzi, l'abbiamo fatta apposta perché facciamo gioco con Vengo Anch'io. Vendo Anch'io, segnatevi la data, Riva del Garda, 18-19 giugno. Grazie a tutti, a Laura, Tiziano, Alessandro, Stefano e Paolino Corleoni. Corso di francese è sul sito, domani Vendo 1. un aerosol. E invece io, se torno indietro, imparo anche il tedesco, che alla fine una lingua è sempre una lingua. Love, love, love.